24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:22 minuti, siamo qui cari ascoltatori in diretta fino alle 9, eccoci con 24 mattino a finire questa settimana con il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Oggi parleremo di Rai, anche perché torna la proposta, attenzione cari italiani, con il neopresidente Tarantola, proposta rilanciata a volte, poi mai attuata, di mettere il canone della Rai collegato alla bolletta elettrica. Così l'evasione cucù non c'è più. E ne parleremo alle 8:30. Avremo ospite anche il procuratore generale di Firenze alle 8:20 per tornare sul tema legalizzazione delle droghe leggere. Il procuratore De Idda si è detto favorevole. Chiederemo a lui come mai. Intanto i giornali in edicola. In questo venerdì 13 luglio, ancora ci siamo, venerdì 13 per i superstiziosi, Buona giornata. Borse in rosso, bene l'asta bot. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera, timori per l'Europa senza crescita, Repubblica, Confindustria, l'economia affonda. Per la Stampa, Grilli, servono altri 6 miliardi. Il Messaggero, allarme BCE, giù le borse. Questi titoli sulla situazione economica finanziaria, mentre poi le scelte diverse per il Fatto Quotidiano, sorpresa, il TAV non serve più, è la decisione della Francia, un po' drastico questo titolo, non è proprio così. Libero, spend in review, una regione da tagliare, è la Sicilia, vive sulle nostre spalle. L'Unità, l'Italia soffre, il PDL pensa alle TV. Il Giornale, si torna a Forza Italia, mentre il Manifesto, di male in Peugeot, la casa d'auto francese come la Fiat chiude uno stabilimento e taglia in tutte le fabbriche. Queste le aperture. Voglio partire da due notizie che riguardano il governo, sono interessanti. La prima la trovate sia sul Corriere che sul Messaggero. Allora, Mario Monti è partito, è andato in Idaho, si dice così? In questo stato degli Stati Uniti d'America, dove si svolge l'annuale segretissima perché i giornalisti non sono invitati, riunione con il gota della finanza, delle imprese, delle persone che contano, qualcuno dirà subito dei poteri forti, organizzata dalla società finanziaria Allen & Company. Allora sul Corriere della Sera Maurizio Caprara, pagina 4, missione di Monti nell'Idaho per rassicurare sul rischio paese. Mario Monti è partito da Roma per quella che negli anni 70, sentite qui cosa scrive Caprara, quella che negli anni 70 le Brigate Rosse avrebbero definito una riunione dello Stato imperialista delle multinazionali, definizione frutto di un'analisi rozza, tuttavia anticipatrice di alcuni meccanismi della globalizzazione, rivalutata quasi un trentennio più tardi dalla rivista del servizio segreto SISDE, Gnosis. E allora, con un viaggio che in Italia regalerà un fine settimana felice dagli amanti dei dietrologie, tra le alture levigate di un pezzo di Idaho frequentato a suo tempo da Ernest Hemingway, il presidente del Consiglio ha raggiunto la Sun Valley, lì dove c'è una piccola folla di proprietari di imperi editoriali, amministratori delegati di giganti dell'economia americana, e se i programmi non ufficiali risulteranno confermati, anche il capo della CIA, David Petraeus, e il suo predecessore, George Tenet. E allora chi c'è? C'è Rupert Murdoch, immancabile, c'è la Microsoft, c'è Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, c'è il numero uno della Coca-Cola, il numero uno di Google, il numero uno di Twitter, il numero uno di Amazon, insomma il gota dell'economia mondiale, ma secondo il Corriere anche forse la CIA. Ecco qui anche su il Messaggero, Anna Guaita, pagina 11, Monti, missione in Idaho con i big dell'economia americana, il premier protagonista al summer camp del Sun Valley, con tutti che si chiedono come mai sia stato invitato Mario Monti per la prima volta quest'anno. E la rivista Variety, diffusissima bibbia dell'infotrattenimento americano, suggerisce così: la crisi dell'Eurozona influisce su tutte le aziende americane, l'Italia è la terza economia d'Europa e Mr. Monti è altamente rispettato, interpreta un ruolo cruciale nella soluzione della crisi. E dunque ecco perché gli investitori presenti a Sun Valley sono ansiosi di chiedere a Mr. Monti chiarimenti. E allora, via alle dietrologie, che si scateneranno nel giro di qualche ora per questa riunione alla quale i giornalisti sono banditissimi e quindi non si sanno i motivi per cui si parlerà. Gli argomenti di cui si parlerà in questa riunione. La seconda notizia, che riguarda sempre un altro membro del governo, in questo caso il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi, torna la vicenda della casa vista Colosseo, perché il Fatto Quotidiano con Marco Lillo fa un'intera pagina, pagina 6. Allora, la vicenda è stata lanciata da Piero Stellino qualche giorno fa sul Corriere della Sera. Piero Stellino, senza citarlo in realtà, ma diciamo raccontando un profilo nella quale tutti hanno intravisto la figura del ministro Patroni Griffi, aveva lanciato questo sasso, addirittura l'idea che Patroni Griffi non avesse pagato l'IMU facendo ricorso. Sdegnato il ministro ha risposto, ha detto: ho pagato l'IMU per la casa al Colosseo, che era già entrata al centro di polemiche per un acquisto a prezzo considerato molto al di sotto del prezzo di mercato. Ebbene, Marco Lillo torna su questa vicenda. Mini IMU Patroni Griffi, eccolo qui a pagina 6. Quanto paga il ministro per la sua casa popolare tra virgolette vista Colosseo? Poco più di 1.000 euro. Non è vero, scrive Marco Lillo, come ha scritto Piero Stellino sul Corriere, senza farne il nome, che il ministro non ha pagato l'IMU. È vero però che ha pagato poco. E vediamo perché. Con tutta una pagina d'inchiesta. Dopo aver versato per decenni un affitto ridicolo e dopo essersi comprato definitivamente per 177.000 euro l'appartamento di 109 metri catastali, che ne vale almeno 4 volte tanto, il ministro ha pagato poco grazie al solito giochino della casa popolare con vista Colosseo. Il fatto è che sul mercato quella casa vale 2.000 euro d'affitto al mese, ma la rendita catastale del primo piano di via Monte Oppio ammonta solo a 865 euro all'anno. Se la si moltiplica per i parametri e le aliquote di legge, si ottiene l'IMU complessiva da versare, 1.104 euro, da dividere tra conto e saldo. Il ministro non ha usufruito dell'agevolazione prima casa né di altre detrazioni, ma comunque se l'è cavata con poco, visto che la sua casa è stata recentemente affittata a un funzionario dell'ONU per 2.000 euro al mese. Il problema, scrive Lillo, è noto da decenni, ma nessuno ci mette mano. Le case del centro storico delle grandi città sono accatastate per cifre ridicole e spesso perfino come abitazioni popolari, anche se valgono il doppio o il triplo delle abitazioni della stessa dimensione ma costruite più recentemente in periferia. E dunque questo è la genesi di tutto. Poi c'è anche tutta la ricostruzione invece dell'acquisto che venne fatto a prezzo sotto il prezzo di mercato, perché la casa fu ritenuta popolare nonostante l'INPS la inserì tra gli immobili di pregio, ma ci fu poi il ricorso di tutti i condomini, tra cui anche Patroni Griffi, al TAR, al Consiglio di Stato, che dette ragione loro dicendo: no, è una casa popolare. E dunque qui fu acquistata a un prezzo che ancora oggi il Fatto Quotidiano dice un prezzo assolutamente scandaloso. L'immobile è ancora accatastato con una rendita minima. La replica di Patroni Griffi: è la legge, non ci sono state migliorie e dunque è tutto a norma. Mini IMU Patroni Griffi, questo sul Fatto Quotidiano. Allora, la giornata ieri economica e finanziaria ha portato a dei titoli oggi sui giornali abbastanza pessimistici, Li abbiamo visti: timori per l'Europa senza crescita, l'economia affonda, così dice Confindustria, questo è il titolo d'apertura di Repubblica, Il Sole, borsa in rosso. Insomma, ieri il presidente di Confindustria Squinzi ha parlato e ha detto così, come si legge in articolo di Nicoletta Picchio a pagina 9 del Sole: il presidente del Consiglio Monti ha parlato di percorso di guerra, io ho detto che siamo sull'orlo dell'abisso, certamente la situazione è difficile, siamo nella tempesta e bisogna remare tutti nella stessa direzione. Dunque una situazione non negativa, anzi, ha detto Squinzi, i numeri impongono questa analisi. Quel 2,4% di calo del PIL previsto dal Centro Studi Confindustria, che secondo Squinzi forse sarà di più, dunque riviste al ribasso queste stime. Nella seconda parte dell'anno faccio fatica a vedere miglioramenti. E, tra l'altro, non aiuta, diciamo, all'ottimismo anche la prima dichiarazione pubblica del neo ministro dell'economia Grilli, dopo che è stato promosso a ministro, Come giustamente mette nel titolo a pagina 6 La Stampa, Grilli, servono 6 miliardi, così si può evitare l'aumento dell'IVA nel 2013, aumento dell'IVA che per ora è scongiurato, lo sappiamo dall'ultima spending review, fino al giugno 2013, ma ora Grilli dice nell'articolo di Francesco Semprini, a meno di 24 ore dal giuramento solenne che lo ha legittimato alla guida dell'economia, Grilli prova a inviare un segnale rassicurante, lo fa su uno dei capitoli più controversi della politica economica, l'aumento dell'IVA, una misura congelata sino a luglio del prossimo anno grazie alla spending review, ma che tra 12 mesi rischierebbe di dare il colpo di grazia ai consumi. Questo governo ha come desiderio di evitare del tutto l'aumento dell'IVA, perché non è utile per la nostra economia, ha detto Grilli nelle audizioni prime alla Commissione Bilancio e Finanze del Senato. Certo, l'impegno è nobile, ma anche oneroso. Sono necessari altri 6 miliardi di euro dalla seconda metà del 2013. Ovviamente Grilli ha detto e ha cercato di spiegare come si cercheranno di reperire questi miliardi, ma insomma servono altri 6 miliardi per scongiurare del tutto l'aumento dell'IVA. Beh, sui giornali sono tutte analisi di possibili tagli agli sprechi. I giornali sono concentrati nello scovare quello che secondo loro per ogni analisi, per ogni testata, potrebbero essere gli sprechi da tagliare e da evitare. Per esempio, Repubblica si concentra su di due. Attacco agli sprechi dei comuni, scure su 5.000 società, via le poltrone. Questo lo trovate a pagina 6 con Lucio Cillis. La mannaia della spending review deve calare sulle società partecipate dagli enti locali, non su quelle che si occupano di fornire servizi di utilità ai cittadini, ma sulle roccaforti create per soddisfare logiche di spartizione dei partiti. Sono una vera e propria giungla per Repubblica, su un totale di circa 5.000 società nel mirino. Ci sono aziende, consorzi, fondazioni, istituzioni che al pari di scarpe di cemento rischiano di far affogare gli enti locali a cui sono legati a doppio filo. E tra l'altro c'è tutto un elenco di appunto queste aziende, questi consorzi, associazioni, istituzioni, fondazioni, poltronifici spesso per politici trombati, dice Repubblica. E poi ci si concentra anche su due regioni, su alcuni giornali, su Repubblica e su Libero. Repubblica sugli stipendi, in questo caso dei consiglieri d'oro della regione Lazio, indennità e super rimborsi per i trasporti. Carlo Picozza, pagina 7. I costi dell'assemblea regionale del Lazio sono lievitati toccando i 115 milioni di euro. Ogni eletto costa come un appartamento. Scrive Picozza, nel Lazio, con la metà degli abitanti della Lombardia, i consiglieri regionali percepiscono uno stipendio doppio di quelli della Lombardia. Ognuno dei 71 consiglieri regionali costa ogni anno ai cittadini del Lazio quanto un appartamento, 335 mila euro, il 20% in più di quanto valeva nel 2009. Per 71 eletti ci sono poi 79 poltrone. Questi sono i misteri davvero della matematica applicata alla politologia italiana. Nessuno infatti è consigliere semplice, sono tutti graduati di cariche, molti ne cumulano più di una, con emolumenti, prebende al seguito, 4 segretari del consiglio, 17 capigruppo. Ah, ci sono anche i monogruppi, ma pare che siano stati cancellati questi, c'era anche la commissione giochi olimpici, sapete, per l'assegnazione a Roma delle Olimpiadi, poi l'assegnazione a Roma, o meglio il correre per l'assegnazione, è stata persa la gara, ma la commissione è rimasta in vita per un po' perché ci voleva una legge per sopprimere la commissione. Insomma, tutti gli sprechi. Invece Libero si concentra sugli sprechi della Sicilia. Qualche giorno, qualche volta ce ne siamo occupati anche noi, ma Libero sentenzia, li mette un po' tutti insieme, una regione da tagliare. Questo è il titolo di apertura, proprio di prima pagina. La Sicilia vive sulle nostre spalle. 20.000 dipendenti, un intero paese di forestali, spese 11 volte superiore alla Lombardia. Una sanità che costa quanto la Finlandia, ma non funziona. I politici più cari d'Italia. E poi pagina 2-3, una regione da tagliare, ci sono anche i conti che fa Andrea Scaglia al portafoglio e lo stipendio del governatore della Sicilia, in questo caso Raffaele Lombardo, pagina 3, cumulando tutte le prebende, gli stipendi, le diarie, i rimborsi forfettari, pare si arrivi, secondo Libra, a 15.683 euro mensili, primato italiano delle regioni. Paga da 14.000 euro, questa invece è la media del consigliere regionale, telefono, auto gratis, la casta d'oro dell'assemblea regionale. Vabbè, questa è la Sicilia. Arriviamo a Berlusconi. I giornali sono pieni, densi ormai, ci si buttano a capofitto sul possibile ritorno di Berlusconi, ormai deciso, le notizie più, ne ho sviscerate tre o quattro delle paginate dedicate al ritorno di Berlusconi sui giornali. Allora, le notizie più interessanti sono queste. Il Cavaliere ha scelto il nuovo simbolo, l'aquilone tricolore. Questo è il titolo di pagina 9 del Corriere della Sera, cioè l'aquilone con i colori dell'Italia, verde, bianco, rosso. Questo dovrebbe essere il nuovo simbolo. Ma poi la novità più interessante forse è questa. Attenzione, Daniela Santanchè fa un'intervista a Repubblica, un'intervista al Giorno, nella quale dice questa frase, tra l'altro. Ribadisce, come aveva detto da noi in anteprima, che ci vorrebbe un ticket con una donna, Berlusconi con una vice donna. Ribadisce: non sono io, ho delle idee, ma soprattutto questa frase: fermo subito tutti, il tempo delle Minetti è finito, così Daniela Santanchè. E infatti su Libero e Il Giornale c'è questa notizia: Berlusconi fa sul serio, la Minetti deve lasciare. Pare certo per Libero e per Il Giornale, due giornali molto vicini ovviamente a Berlusconi, che la lettera di dimissioni di Nicole Minetti dal Consiglio regionale della Lombardia sia già stata preparata, bisogna solo cercare di convincerla a firmarla. Questo è il titolo di Libero, appunto, lo mette in prima pagina, e Berlusconi fa sul serio, la Minetti deve lasciare. Addirittura sul Giornale, a pagina 2, c'è anche un'ipotesi di data. Potrebbe lasciare già lunedì prossimo. Il Giornale, pagina 2, Minetti tentata dallo spettacolo. Beh, il titolo è un po'... qualcuno potrebbe dire, beh, ha sempre fatto spettacolo o proviene dallo spettacolo. Tentata dallo spettacolo, vicino l'addio. Giannino Della Frattina racconta, la consigliera potrebbe dimettersi già lunedì dalla regione. La scelta dettata anche dalle polemiche piovute su di lei. Tra l'altro, sempre per gli amanti del gossip, la danno come la nuova fiamma di Fabrizio Corona, Nicole Minetti. Mentre un'altra persona è tentata dal rientro, è il tempo dei grandi rientri, dei grandi ritorni, tutto torna. Giulio Tremonti, scrive Sergio Rizzo, a pagina 8 del Corriere della Sera, seminari e voglia di politica, il ritorno tenta anche Tremonti. Racconta Sergio Rizzo del periodo più difficile, il primo vero scontro tra lui e il Cavaliere. Era il 3 luglio 2004, ricorda Sergio Rizzo questa battuta di Berlusconi che si avvicinò all'ormai ex ministro dell'economia con l'aria del cane bastonato, gli offrì una vacanza sul suo yacht ormeggiato ai Caraibi, e Giulio Tremonti, impassibile, senza fargli terminare la frase, gli rispose: sai bene che odio il mare, d'estate vado in montagna. Era il 2004, poi ci sono state le vicissitudini, i governi insieme, però le tensioni, a volte le accuse reciproche, dette, non dette. Sta di fatto che Tremonti ora pensa seriamente di tornare a convincerlo. Scrive Rizzo: non è stata la micidiale tempesta che ha travolto il suo amico, e tale resterà, Umberto Bossi, ma il fatto è che Tremonti non si è mai rassegnata a uscire di scena accontentandosi di una dorata pensione o tornando a fare il suo vecchio mestiere, il fiscalista. E quindi da mesi l'ex ministro sta tessendo la propria tela per dar vita a un qualcosa che, se il progetto, perché di tale si tratta ancora, andrà in porto, sarà presentato a settembre. Torna forse anche Giulio Tremonti. Allora, la RAI ha un nuovo presidente, il terzo presidente della storia donna, dopo Letizia Moratti e Lucia Annunziata, vale a dire Anna Maria Tarantola, è stata votata ieri in maniera ufficiale, si è insediata, a tutti gli effetti è il presidente della RAI, potete leggere la cronaca, anche politica, pagina 13 del Sole 24 Ore con Marco Mele. Noi tra l'altro ne parleremo perché una delle ipotesi in campo mai sopita, mai dimenticata, veniva rilanciata periodicamente, è quella di legare il canone della RAI, il pagamento del canone della RAI, alla bolletta elettrica, e così non potete più evadere il fisco, cari ascoltatori. Che ne pensate? Ne parleremo alle 8.30, ma sulla RAI si è scatenata ovviamente la politica, le polemiche, perché c'è stato un vertice con Monti che ha chiamato a Palazzo Chigi alcuni del PDL per votare appunto Anna Maria Tarantola, anche perché Monti aveva minacciato o la votate ieri o la votate oggi, ha detto nella giornata di ieri, oppure commissario la RAI. E quindi alla fine il PDL, che aveva la maggioranza in commissione di vigilanza, ha votato, e Bersani si è molto arrabbiato, dice: abbiamo visto che vanno a parlare di RAI in questo momento, allora il canone se lo paghino loro. È anche sbottato così. Sta di fatto che c'è un'intervista che vi segnalo ad Augusto Minzolini, ex direttore del TG1, intervistato da Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera. Ma il PD di cosa si stupisce? Sono i partiti l'editore della RAI. Così Minzolini: Bersani si è infuriato? Ah sì? E perché? E dice Minzolini: sei d'accordo anche tu che sulla RAI ormai ci si muove tra ipocrisia e dosi di demagogia? Lo sai anche tu come sono stati nominati tutti i direttori del TG3, peraltro tutti colleghi bravissimi? C'è sempre stato l'assenso del segretario di turno del PC, del PDS, del DS, dei PD. E allora di cosa si stupisce Bersani? Poi certo, come sempre, quelli del PDL sono un po' goffi in queste cose. E poi c'è anche una domanda che fa evidentemente arrabbiare Minzolini: chi lavora in RAI dovrà stare particolarmente attento a usare la carta di credito aziendale ora che c'è la Tarantola? E Minzolini: è una battuta? No, guarda, te lo dico subito, se è una battuta non fa ridere. E sai perché? Perché se ti riferisci alla mia vicenda, beh, io sono ansioso di arrivare alla sentenza di primo grado. Stiamo ricostruendo i fatti, ho già restituito 68.000 euro, tutti sanno le varie versioni fornite dall'allora direttore generale Masi in un miscuglio di leggerezza e confusione, e allora ti annuncio una cosa: se vengo assolto per legge, io devo tornare al mio posto. Insomma, un Augusto Minzolini che dice: torno al TG1 se vengo assolto. TG1 che finisce l'intervista dice: ti do un consiglio, dice a Fabrizio Roncone, non scrivere che facevo un TG berlusconiano. Quello era piuttosto un TG minzoliniano. Così Augusto Minzolini, che vuole tornare al TG1 se viene assolto, perché dice è la legge. In realtà si pensa già alle nomine, è partito il risico delle nomine, nuovo presidente, nuove nomine. Ho letto il titolo di Repubblica, pagina 9, Goffredo De Marchis racconta che Lilli Gruber è sempre in pole position per la nomina a direttore del TG1, ma con lei anche l'editorialista del Corriere della Sera, Massimo Franco, il direttore del Messaggero, Mario Orfeo, il numero uno dei giornali radio della RAI, Antonio Preziosi. Vabbè, se siete interessati, diciamo, a queste nomine o possibili nomine, su Repubblica, pagina 9, trovate un articolo succoso in merito. Io devo chiudere, sono sempre tantissime notizie da dare, ma il tempo è sempre meno, e quindi voglio dare la notizia che trovate sul Sole 24 Ore con Giulia Crivelli a pagina 24, vale a dire il Qatar, gli emiri del Qatar che hanno rilevato la Maison Valentino. È un marchio prestigioso che passa per la bellezza di 700 milioni di euro. Valentino venduto a peso d'oro. Trovate tutti i dettagli a pagina 24. Tra l'altro c'è su Repubblica anche una pagina con Natalia Aspesi che raggiunge Valentino per una breve dichiarazione, Valentino Garavani, in un luogo, con una voce che arriva da lontano, e dice la stessa Aspesi: da qualche parte opulenta del suo mondo. Dice Valentino: siamo fortemente sollevati, questa operazione ci piace, vuol dire che il marchio che porta il mio nome ha ancora un prestigio indiscutibile, certo anche grazie al lavoro dei due attuali disegnatori e dell'amministratore delegato dell'azienda. Un lavoro, il loro, basato sulla modestia, la mancanza di scandali, senza divismo e presunzione, una lezione per tutto il mondo della moda. Così Valentino a Natalia Aspesi su Repubblica. Insomma, questi emiri del Qatar si sono portati via Valentino, e si sono portati via anche, e bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, e dunque per metà è una grandissima notizia per i tifosi del Milan, Ibrahimovic, che finalmente se ne va al Paris Saint-Germain. purtroppo si porta via anche Thiago Silva, non si può avere tutto dalla vita, ma finalmente possiamo dirlo a voce alta, via Ibrahimovic. Vogliamo tornare oggi a parlare del tema della legalizzazione delle droghe leggere, lo facciamo in questa intervista, il tema lanciato da Saviano, che è stato raccolto anche da Umberto Veronesi, anche dal governatore della Toscana, Rossi, cioè legalizzare le droghe leggere per togliere soldi alla criminalità organizzata, un tema che è stato anche appoggiato dal procuratore generale di Firenze e della Toscana, Beniamino De Idda, che saluto, buongiorno procuratore. Buongiorno. Lei si è detto favorevole a questa ipotesi rilanciata da Saviano, perché? Sì, ma intanto vorrei dire questo perché è sempre bene non fare confusioni. La legge oggi è quella che è e i magistrati hanno il dovere di applicarla nella maniera più scrupolosa possibile. Ecco, questo ci tengo a dirlo perché insomma le dichiarazioni dei magistrati vengono spesso equivocate. Ecco, detto questo, mi pare opportuno esaminare appunto, secondo la domanda che lei fa, quali siano gli effetti delle norme in vigore, cioè le conseguenze che ne scaturiscono sul piano giuridico e sociale. Quali sono, secondo lei? Ma naturalmente bisogna abbandonare il piano dell'ideologia e attenersi all'esperienza, insomma, io rispetto moltissimo le idee altrui, ma mi limito a notare alcuni effetti che sono emersi con chiarezza dall'applicazione di queste leggi. Ecco, il primo effetto mi pare che balza agli occhi è che le norme vigenti non sono in grado di impedire finora il prosperare delle droghe. È un traffico che inevitabilmente si trova nelle mani della criminalità e non si può dire che i grossi trafficanti si siano molto impressionati per il timore dell'applicazione della legge. Sì, io aggiungo anche un dato, oggi sull'Espresso c'è scritto che 4 milioni sono gli italiani che fanno abitualmente uso, si fanno le canne, ecco, per dirla così, il consumo più alto in Europa, questo è. Ecco, io aggiungo che abbiamo le carceri piene di piccoli e piccolissimi spacciatori, ma noi sappiamo che arrestato uno spacciatore e viene subito sostituito da un altro, perché è l'effetto inevitabile di ogni proibizionismo. E perché però, procuratore, l'idea di liberalizzare, quindi far controllare allo Stato una produzione, una distribuzione di droghe leggere, sempre che poi ci sia questa distinzione che qualcuno contesta anche nella sua radice, dicendo le droghe sono tutte uguali, ma al di là di questo che è un altro problema, perché liberalizzare potrebbe essere la soluzione? Io credo che una progressiva e cauta depenalizzazione da un lato e liberalizzazione dall'altro siano due sistemi che potrebbero dare qualche risultato. Naturalmente si tratta di controllare poi il mercato, cioè la qualità e i prezzi, anche se nemmeno questo forse eliminerebbe del tutto un mercato. La verità è che occorre poi accompagnare queste misure con la prevenzione, con l'educazione, bisogna incidere sulle cause che inducono il consumo di droghe, cioè esattamente quello che finora non si è fatto. Noi abbiamo pensato che bastassero i divieti, la repressione. Però le chiedo, procuratore De Idda, non c'è una contraddizione nel dire educhiamo i giovani al non uso della droga, però poi lo Stato liberalizza in qualche modo, cioè seguendo questa ipotesi, nel senso che qualcuno la potrebbe porre sul piano etico, come si fa a lucrare anche da parte di uno Stato su una cosa che poi si dice dall'altra parte fa male non utilizzarla? Ma vede, io vorrei abbandonare il piano dell'etica perché c'è un secondo inevitabile effetto del proibizionismo ed è la lievitazione dei prezzi. Noi sappiamo che i prezzi sostenuti inducono una spirale perversa, cioè i più deboli, quelli privi di risorse sono costretti a procurarsi il denaro con mezzi illeciti se vogliono fornirsi di droga, perché aumentano i furti, aumenta la piccola delinquenza, la piccola criminalità comune. Il fenomeno si ridurrebbe, ripeto, se il mercato fosse controllato e i prezzi contenuti. Il problema non è se essere contro o a favore della droga, perché il problema è cosa fare per ridurne gli effetti devastanti. Ecco perché mi pare che finora il divieto generalizzato non abbia prodotto. Questo sì, ma un effetto devastante non è anche dire liberalizziamo e poi dover affrontare gli inevitabili costi sociali, anche sanitari, per, immagino, il maggiore utilizzo poi di questa droga più a disposizione. Al contrario, credo che non sarebbe affatto maggiore, perché credo che negli anni 30 nessuno abbia consumato alcol in America come quando è stato proibito. Quindi il proibizionismo non riduce, cioè il proibizionismo aumenta il consumo, secondo lei? La capacità della criminalità di diffondere i consumi è molto maggiore di quella che il mercato da solo, con le sue virtù intrinseche, potrebbe fare. Quindi una liberalizzazione porterebbe a una diminuzione dei consumi, secondo lei, perché non ci sarebbe la spinta della criminalità né la spinta della criminalità né i grossi proventi, perché è chiaro che tutto ciò che è illegale, intanto tutto ciò che è proibito ha qualche fascino, evidentemente, se no non si spiega questa diffusione con i numeri che lei ricordava. Ma e poi, insomma, l'idea che basti proibire per sentirsi a posto con la coscienza e non affrontare, sono quelli etici, appunto, che sono quelli pedagogici, che sono quelli dell'impatto sociale, che sono quelli sanitari, su questo dovremmo impegnarci, anziché il controllare il mercato significa anche controllare la qualità, cioè garantire ai consumatori che non saranno vittime, per esempio, di qualità scadenti, di droghe mortali, eccetera. Beh, questo è un aspetto ancora ulteriore, cioè se vuole, molto interessante, cioè che si dovrebbe a quel punto controllare anche la qualità della droga sul mercato. Ma quando la si proibisce, la qualità è controllata soltanto dai trafficanti oggi, e i quali hanno mano libera senza che nessuno possa seriamente intervenire. Senta, il senatore Giovanardi, che è stato nostro ospite nei giorni scorsi, che è uno dei fautori della legge attualmente in vigore, Fini Giovanardi, dice non è vero che basta questa cosa, non si va in carcere per uno spinello, per due spinelli, il consumo è depenalizzato. Ci aiuta a capire dalla sua esperienza? Cioè, perché si va per il picco, certo, non si va per il consumo dello spinello, perché il referendum del 93... per l'appunto abolì questa norma, ma si va per il piccolo e piccolissimo spaccio. Il piccolissimo spaccio vede vittime di un giro e gente che di solito non delinque in altri campi, ma che delinque e riempie le carceri. Ecco, io credo che tutto questo, arrestato uno spacciatore, ripeto, la criminalità è in grado di sostituirlo subito, nel giro di pochi minuti, con un altro. Quindi è un'illusione pensare che la repressione penale sia il toccasana. Perché è un argomento tabù, secondo lei, questo in Italia? E lo è davvero tabù? Ma sai, c'è un po' di fariseismo in giro, insomma, e forse anche, chi lo sa, insomma, ci sono, l'ideologia qui prevale, credo, su una serena valutazione dei fatti, e quando i fatti vengono costretti nelle maglie dell'ideologia, insomma, non si va lontanissimo. Un'ultima domanda, procuratore, la devo fare perché oggi sull'Espresso dice che è anche tabù dire consumo marijuana. Lei ha mai provato uno spinello? No, ma solo perché non ho tempo, non perché sono... Che vuol dire non ho tempo? Scusi, 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti le avrà anche lei nella giornata, no? Non sempre, creda a me, non sempre. Va bene, la ringrazio, buona giornata. Grazie, buona giornata per essere stato con noi. Il procuratore generale di Firenze, Beniamino De Idda, che dunque sì, in questo dibattito, secondo me, molto interessante. Noi ci torneremo, ve lo prometto, perché è un dibattito serio, che è stato lanciato da Saviano, da Veronese, e in realtà poi a volte si addormenta un po', il dibattito diventa un po' sopito, poi rinasce, ricresce, però è un dibattito vecchio e se volete anche riproposto ciclicamente, ma molto interessante. Ci torneremo su questo tema, la legalizzazione e la liberalizzazione sono due cose diverse delle droghe leggere. La RAI ha un nuovo presidente, donna, è la terza volta prima presidente donna nella storia della RAI, dopo la Moratti, dopo Lucia Annunziata, e Anna Maria Tarantola, una lunga esperienza alla Banca d'Italia. Ci sono i dibattiti politici anche, se volete chiacchiereremo anche su questo, secondo me un po' più noiosi, ma c'è un tema che è stato rilanciato, da qui vogliamo partire, perché è l'ipotesi che il premier Mario Monti, ereditandola peraltro da altri governi, ma non se ne è fatto mai nulla in realtà, ha rilanciato, cioè quello di legare il pagamento del canone della RAI, per il quale c'è un'evasione da 800 milioni di euro l'anno stimata, alla bolletta elettrica. Cioè avete un allacciamento elettrico, si presume che voi abbiate anche un televisore, e quindi avendo un televisore dovete pagare il canone della RAI. Poi immagino che questa proposta voglia dire che se uno proprio non ha la TV basta che lo dimostri, e quindi non è automatico. Ma insomma, vogliamo parlare di RAI e canone con l'onorevole Massimo Bitonci della Lega. Buongiorno onorevole. Buongiorno a tutti. Che possiamo dirlo è uno di quelli, non è lui unico della Lega, che credo, possiamo dirlo, è evasore fiscale. Lei è un evasore fiscale, non paga il canone della RAI. È così? Direi di sì, anche convinto. Cioè, anche convinto. È più di 10 anni che non pago il canone, penso di non averlo mai pagato, ed è una scelta convinta e voluta anche. Tra poco ci spiegherà perché. Intanto mi faccio salutare il senatore Pancio Pardi dell'Italia dei Valori, buongiorno. Buongiorno. Bitonci, perché non lo paga? Non l'ha mai pagato forse? Ma perché nonostante il fatto che la RAI ci spieghi ogni anno che questo è un tributo e come tale deve essere pagato, si va avanti mesi per mesi e mesi con raccomandazioni che rimbalzano in tutti quanti i canali delle TV di Stato. In effetti questo poi non è un tributo, perché è collegato a un servizio pubblico che dal mio punto di vista, ma non sono, perché sono migliaia e migliaia di italiani che sono convinti di questo, è un servizio pubblico non efficiente che non viene assolutamente dato. Lei lo lega a questo, però in realtà per la legge è una tassa sul possesso di un televisore, quindi avendo un televisore uno automaticamente deve pagare questo balzello, questo dice la legge. In effetti quello che fanno molti contribuenti è quello di comunicare direttamente alla RAI e poi successivamente anche all'agenzia di non utilizzare i canali RAI, quindi c'è tutta quanto una procedura che insomma che viene descritta in molti siti anche della Lega Nord, quindi c'è la possibilità poi di piombare il televisore a lei e mai di capitato? Non pagare il canone. A lei mai capitato? A me non è successo perché io ho dichiarato di non pagarlo da anni e mai nessuno è venuto a casa mia per poi fare questa procedura e quindi per piombare poi questa cosa. Tra l'altro è incredibile, anche il suo collega Davide Caparini, che fa la stessa battaglia, ma credo siate molti nella Lega, ha detto: io lo dico pubblicamente, tra l'altro l'onorevole è stato anche sindaco a Cittadella, no? eppure non succede nulla, cioè, nessuno le ha mai bussato alla porta a dire scusi, lei ha detto che non paga il canone della RAI, siamo della Guardia di Finanza, buongiorno. Niente. Pronto, Vito? No, sì, adesso vado da Pardi, però è incredibile questa cosa. Senatore Pardi, lei, ma a parte che siete su Senato e Camera, ma lei è orgoglioso, si vergogna di stare nello stesso Parlamento con l'onorevole Bitonci? No, non è no. Che se mi vergogna, anzi le dirò di più. Io personalmente, anche il mio partito, abbiamo spessissimo negli ultimi anni dichiarato che con grande difficoltà la RAI può essere intesa come servizio pubblico, perché io glielo dico apertamente, negli ultimi 20 anni la RAI è stato un servizio privato a vantaggio di Berlusconi, quindi non, se uno la mette sul piano fa un servizio pubblico o non fa un servizio pubblico, forse qualche ragione il mio interlocutore ce l'ha. Dice non lo pagherebbe neanche lei forse, no, se la mette su questo piano. Rovescio la cosa, io penso che i cittadini possono avere un interesse a pagare il canone nel momento in cui diventano i protagonisti di controllo del servizio pubblico, per cui io sono favorevole all'idea che il pagamento della bolletta sia inserito nella bolletta elettrica con le dovute salvaguardie, che so per esempio possibilità per gli anziani, pensionati, famiglie con basso reddito di poter avere delle facilitazioni e naturalmente che non ci siano crudeltà inutili di fronte alla possibilità di dimostrare che uno non ha la televisione. Certo, questo qui, sì. Questo. Fate insomma tutte le riserve di scuola che si fanno in questi casi. Io ritengo che sia giusto che tutti paghino il canone proprio per garantire il servizio pubblico. Ma anche perché non è, anche perché non è legato a una questione di servizio, cioè è legato proprio al possesso della TV. Quindi io ci passo sopra quella cosa. Ecco. Diciamo, se la mette solo sul fatto che un'imposta va pagata e va bene, d'accordo, è risolta la cosa. Però lei sa esattamente come me che non è l'unica tassa in evasa in Italia, perché l'evasione fiscale in Italia ha delle proporzioni gigantesche e l'elusione lo stesso, quindi sono 120 miliardi l'anno che se ne vanno via perché gli italiani non pagano le tasse, e non è certo quello del canone, l'evasione. Certo, questo sì, questo sì. No, però invece dico, la metto sul piano del protagonismo civile. Se tutti, la cosa fondamentale secondo me che andrebbe aggiunta, se non c'è, alla proposta di Monti, è che i cittadini che pagano il canone devono avere il diritto di esercitare una sorta di forma di controllo civile sull'esercizio del servizio pubblico. Proprio perché pagano, dovrebbero essere ritenuti come dei piccoli azionisti in una grande azienda pubblica e dovrebbero poter esprimere anche il loro punto di vista tramite una rappresentanza all'interno del consiglio d'amministrazione. Beh, adesso c'è la rappresentanza della società civile, ma poi l'editore sono i partiti, quindi che devono fare? Cioè, in teoria il cittadino vota in Parlamento il proprio rappresentante. Il proprio rappresentante è anche editore della RAI e farà l'interesse del cittadino, così giusto per sognare un po'. No, perché poi ci sono gli atti di forza, perché per esempio all'ultima votazione in vigilanza sul consiglio d'amministrazione la votazione è stata distorta da un intervento di forza del presidente Schifani, il quale in corso d'opera ha alterato la composizione della commissione. Sì. Vabbè, ma comunque il consigliere Amato del PDL, sì, che è stato espresso un giudizio cambiato, è stato sollevato dall'incarico e sostituito con uno più obbediente. Allora, però, prima di venire a cose politiche, se volete beghe politiche della RAI, onorevole Bitonci, io sono veramente stupito del fatto che nessuno, sia lei, all'onorevole Caparini, abbia mai bussato alla porta. Cioè, perché lei sta dicendo, io in maniera manifesta, e tutti sappiamo chi è lei, dove abita, è un uomo pubblico, evado il fisco, cioè non pago il canone della RAI, eppure non succede nulla, ma le sembra normale in Italia? Ma guardi, potrebbe non essere normale per quanto riguarda altri tipi di tassazione, ma questa, ripeto, è fittiziamente una tassa, perché non possiamo dire che sia legata solo al possesso del televisore, ma anche alla prestazione di un servizio che il servizio non c'è. Quindi io non mi sento minimamente in colpa, anzi. Ma la legge lo dice, non è che serate, quando giro per le piazze o per le sedi della Lega o faccio gli incontri con la gente, facciamo delle serate dove spieghiamo proprio come non pagare il canone RAI, perché questa è una battaglia che va fatta, non siamo i soli che la facciamo, ma comunque i numeri della RAI poi sono veramente incredibili, perché parliamo di 13.000 dipendenti con un costo medio di 89.000 euro per ora. Capito, però onorevole Bitonci, mi scusi. Milioni, 40.000 collaboratori, 21 sedi regionali. Onorevole, però mi scusi. Parliamo di un carrozzone che va cancellato. Ho capito, stiamo parlando di tagli, di spending review, e dopo abbiamo un carrozzone che ci costa più di 1 miliardo all'anno, che potrebbe tranquillamente, come voi, quelli che non sono pagati dal pubblico, che potrebbero tranquillamente stare sul mercato se ne hanno le forze. Però mi scusi onorevole Bitonci, non è una sua interpretazione dire secondo me è legata a un servizio pubblico, cioè per la legge, e lei è un rappresentante della legge, sede in Parlamento, è una tassa legata al possesso, cioè o la cambiate questa cosa o finché è così uno la deve pagare. Guarda, ci sono molte sentenze della Corte Costituzionale che si è arrampicata sugli specchi per spiegare che, benché all'origine si apparisse come configurato come corrispettivo, però dopo è stato trasformato in tassa, perché, cioè, nel senso, non è chiara poi la natura, perché il solo fatto di essere proprietario di un frullatore, di un televisore oppure di una lavatrice non può essere certamente la base impositiva di una tassazione, magari. Parliamoci chiaro, magari vogliamo chiamarla con un nome, con un e cambiate la legge, perché cioè deve essere un'imposizione fatta al cittadino, ok, chiamiamola tassa, ma io la pago questo, comunque come migliaia, questo è, migliaia questo di è. Cittadini. Però comunque cambiate la legge se volete, cioè, visto che siete in Parlamento. Guarda che noi siamo per privatizzare la RAI, quindi, ah, certo, problema, quindi non si porrebbe. Lo affronteremo in maniera molto molto diversa. Allora, perché... no, aspetti, se sono brevi, per cortesia, gli ascoltatori. Lorenzo da Firenze, buongiorno. Buongiorno, sarò brevissimo. Dica. Diventa da una tassa per la RAI, diventa una gabella insieme alle altre gabelle che ci sono già in Italia. La questione è che io mi trovo a dover pagare, se si paga sulla bolletta dell'Enel, sì, in tutte le abitazioni che ho. Beh, sì, o la mettono su una sola. Beh, a parte che è un'ipotesi, immagino che sia, Lorenzo, credo che sia l'ipotesi di fare lo stesso pagamento che c'è adesso, quindi una TV e cioè con tutte le esenzioni per gli anziani, per chi può, lo stesso pagamento ma con una formula diversa, così da evadere, da contrastare l'evasione fiscale. Non credo che sia quindi tutte le utenze dell'energia elettrica che lei ha. Premetto che ho sempre pagato fino ad ora, ma non è che sia tanto contento, cioè se diventasse una TV privata si mette in concorrenza con le altre e se ha la forza di rimanere in piedi rimane, se no altrimenti sparisce come tutte le aziende e lo Stato ci ha obbligato va bene. Dice azienda privata, la privatizzazione della RAI, come vuole anche la Lega. Grazie Lorenzo da Firenze. Oscar da Milano, buongiorno. Oscar. Buongiorno a lei, senta, semplicemente volevo osservare qualcosa che forse qualcuno non ha osservato, sì, che siamo l'unica nazione al mondo che ha tre reti di Stato, tre, non ce l'ha nessuno, neanche la Corea, nessuno ce l'ha, siamo gli unici che abbiamo questo scempio economico. Per far contenti, andrò a lavorare in Rai io dopo queste trasmissioni, ve lo annuncio sicuramente, la mia carriera in Rai sarà fulminea, grazie Oscar, dica, e poi? Niente, è per questo, e poi per gli sprechi. Adesso, se non sbaglio, ho sentito ultimamente che c'è un ex direttore generale che è stato messo da parte, però prende 700.000 euro l'anno, non si sa bene a quale titolo. Pare proprio sulla rete 4 ore. Ma è vero che mi scrivono dalla redazione perché non faccio il furbetto? Cioè, mi hanno scritto che lei non paga il canone della RAI da anni? Assolutamente sì, non lo pago. Non lo paga. Le è mai successo? E non lo pagherò mai, ma neanche pistola alla testa, guardi. Non mai, lo pagherò io, mai. Io posso pagare tutto il resto, ma mai questo, perché questa è un'estorsione per i politici. Io non lo tollero. Ma mai lo pagherò. Devo dire, la tassa considerata più odiata per gli italiani, la tassa più odiosa per gli italiani, questo anche da sondaggi. Grazie Oscar. Senatore Pardi, per le questioni invece di politiche della RAI, ieri Bersani è sbottato dicendo: ho visto quelle del PDL che sono andati a trattare, non è che mi interessa bene capire. E sa cosa ha detto? Allora, se vogliono controllare la RAI, il canone se lo paghino loro. Alla fine è sempre il canone. Un oggetto del... No, però devo dire all'onorevole Bitonci che loro disprezzano tanto il carrozzone, però hanno brigato e come in questi anni per mettere i loro uomini lì dentro, meno di Mediaset, perché la RAI, come tutti sanno, è imbottita letteralmente nei luoghi di vertice di uomini e donne che vengono da Mediaset, perché devono lavorare per Berlusconi. Ma lei c'ha sta fissa, no? Che tutti per Berlusconi. Bisogna saperlo, cioè sono dozzine e dozzine di persone nei luoghi fondamentali della RAI che sono uomini Mediaset. E la Lega da parte sua ha brigato e ottenuto la direzione di reti, telegiornali, eccetera. Quindi il carrozzone lo disprezzano, però poi se ci possono salire sopra ci salgono. Tra poco, prima di far rispondere a Bitonci, però senatore Pardi, le volevo raccontare quello che oggi sul Corriere della Sera, non so se l'ha già letto, racconta in un'intervista a un suo caro amico Augusto Minzolini. Che ovviamente ero ironico, lo dico per gli ascoltatori, non per lei, ma per farmi capire. Dice Minzolini: ma che vuole Bersani? C'è sempre stato l'assenso di tutti, per esempio delle direzioni del TG3, come vengono nominate? L'assenso del PC o del PDS, dei DS, del PD, di che si stupisce Bersani? Certo, poi quelli del PDL come sempre sono un po' più goffi in queste cose, però come dire, è la RAI, quindi è così, c'è la politica, di che si stupisce? Lei si stupisce ancora di qualcosa, Pardi, delle nomine? No, in questo c'è qualcosa di diciamo. Perlomeno in questo Minzolini è stato sincero, ammette. Del resto è stato preceduto da Vespa, che vi ricordate in una celebre trasmissione disse che la DC era il suo editore di riferimento, quindi questo fa parte di una tradizione, ma il problema è questo, è non arrendersi alla tradizione, provare a vedere se si riesce a svolgere davvero una funzione di servizio pubblico. Lo scandalo per esempio delle tre reti, io non ci trovo nulla di male invece, perché se lo spettatore si ricorda che cos'era la rete 3 al tempo di Guglielmi, la rete culturale, era una rete diciamo, la rete culturale di capacità creativa eccetera, quindi il problema è come uno la fa la televisione. Certo, se uno la riduce alla servetta di cucina di Mediaset e gli cancella tutti i programmi migliori e gli sottrae tutti gli autori più significativi, certo diventa uno straccio, ma il problema invece è dargli una vitalità. Onorevole Bitonci, prima di rispondere al senatore Pardi che dice la Lega sale sul carrozzone dopo averlo disprezzato, mi dica questo per capire, ma perché molti ascoltatori ce lo chiedono, ma a lei arrivano le ingiunzioni di pagamento, almeno questo sì, cioè le arrivano la lettera? Mi arrivavano all'inizio anni fa. E poi che faceva? Le stracciava? Cosa faceva lei? No, ho sempre risposto di non voler pagare il canone, ma nonostante questo mi è arrivato per un po' di anni, dopo alla fine hanno desistito, l'onorevole, hanno capito che lei non paga, e poi la questione del carrozzone, cioè anche voi avete uomini in Rai, quando si parla di articoli ci sono, non so, nel CDA, gente in quota Rai, c'era la Bianchi Clerici che poi si è candidata a sindaco per la Lega, cioè ci sono anche voi, insomma avete partecipato a questa lottizzazione. Ma è chiaro il fatto che comunque all'interno della RAI ci sia sempre stata una lottizzazione da parte dei partiti, non, cioè i cittadini lo sanno, è una cosa chiarissima, quindi tutti quanti i partiti hanno avuto al loro interno delle posizioni, ma poi è normale che sia così, finché c'è questa... c'è questa RAI che, insomma, come dicevamo prima, ha debiti per 800 milioni, migliaia di collaboratori. Volevo fare solamente un esempio relativo al TG1, cioè il TG1 ha 140-145 giornalisti, mentre lo stesso TG5, quindi insomma andiamo da Berlusconi, però insomma l'esempio è abbastanza calzante, un TG quindi molto visto come quello del TG1 ha meno della metà dei giornalisti, dei collaboratori. Cioè, ma lei insiste, è un carrozzone Rai. Il TG Rai ha 657 redattori, è un record mondiale, e tra gli sprechi abbiamo anche i compensi che sono stati criticati non solamente da noi, quei compensi, facciamo qualche esempio, tanto per fare qualche nome, il compenso di Fazio 2 milioni, quello di Floris 500 mila euro all'anno, ma non solo, cioè sono compensi milionari che una TV di Stato assolutamente non deve pagare. Lei insiste, la privatizzazione, mi faccia dare anche... Si guarda troppo l'audience, se deve essere una TV di Stato, faccia servizio pubblico. I programmi devono essere rivolti più all'aspetto culturale, informativo e un po' meno all'audience. Meno audience e più servizio pubblico. Vediamo se Massimo da Bologna ce la facciamo. Massimo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. No, volevo rispondere e fare una domanda sulle inconsistenti affermazioni dell'onorevole Bitonci, che veramente... si sta arrampicando sull'interno. Ma mancano 40 secondi, poi non c'è tempo per la risposta. Quale sarebbe? Se la sua posizione privilegiata di deputato ha fatto sì che non abbia mai avuto controlli. Vediamo. È secca, la domanda è chiara. Siccome devo chiudere in 30 secondi, Bitonci, il fatto che lei sia un parlamentare, per questo che ha il privilegio, per cui non la controllano, non le vengono a chiedere i soldi? Ha capito? Bitonci, dica. Ha capito? Io sono deputato solamente da questa legislatura. Sì, questo è vero, sono di Matusalemme, che sono da 40 anni in Parlamento. Questo è vero. Il sindaco anni. Il fatto di essere un personaggio pubblico. Pubblico sempre rischiato, ecco, in proprio. Ma le chiedo io, il fatto di essere stato un sindaco, un personaggio pubblico, là, secondo lei... Secondo lei non vanno a piombare il televisore o non arrivano gli avvisi di garanzia al sindaco o le denunce ai sindaci? No, ma infatti questa è la sua risposta. Mi devo fermare, grazie a Massimo Bitonci della Lega, al senatore Pardi dell'Italia dei Valori, @24 mattino oppure @Alino Milan, sono io su Twitter, e ci troviamo lunedì mattina 7:20.